Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Eccoci pronti per una nuova settimana, la seconda della fase 2. Tra qualche giorno, dicono gli esperti, potremo valutare l'impatto delle misure adottate il 4 maggio. Speriamo. Abbiamo buone ragioni per credere che, se non abbassiamo la guardia, la situazione generale evolverà verso un quadro sempre più positivo. Sembra infatti che il virus mostri un po' il fianco. Ma non per questo dobbiamo cantare vittoria, per carità, mai sottovalutare il nemico, tanto più quando è invisibile. Intanto iniziamo la giornata bene, salutando un grande esperto e aggiungo anche amico del nostro programma, il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare e direttore dell'unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno professore, ce l'ho fatta. Buongiorno, ma è troppo lungo, cominciamo a tagliarlo. Ha ragione. Cosa, adesso, insomma. Professore, le prossime volte la taglio, dico solamente il professor Ciccozzi, punto e finito. Professore, nei giorni scorsi, in una audizione alla Commissione Sanità del Senato, lei ha detto che SARS-CoV-2 sta perdendo potenza, è un'ipotesi ancora da dimostrare, ha tenuto naturalmente a precisare perché al momento non ci sono a disposizione le prove di patogenicità in laboratorio su cellule virus, ma professore, possiamo avere speranza? Ma sì, io la voglio avere e la dobbiamo avere tutti. Allora, la situazione è questa, che tutto ciò che noi stiamo vedendo è tutto frutto di quanto noi siamo stati bravi con le distanze e con le mascherine. Tutto ciò che non dobbiamo vedere è l'aperitivo che ho visto ai Navigli e la stessa cosa, senza aperitivo, lo dico, qui a Roma, a un parco vicino alla mia casa, cioè le persone che hanno ricominciato a rilassarsi un po' troppo. Ecco, questo no. Il virus sta perdendo la sua forza e la sua potenza ed è vero perché sta facendo una serie di mutazioni. Noi abbiamo pubblicato circa una decina di articoli scientifici, l'ultimo con il gruppo di Robert Gallo, quindi insomma, siamo molto sicuri di questo. Le mutazioni le vediamo, a lui servono a poco, quasi a nulla, ma anche se servono a nulla al virus, la selezione lì agisce e lo fa arretrare facendolo sempre più adattare al nostro organismo e quindi a diventare meno contagioso perché perde di questa sua forza, di questa sua potenza, e proprio perché si adatta. Allora noi abbiamo queste due grandi cose. Uno, moltissimo, ed è importante, la distanza e le mascherine e ciò che noi stiamo facendo e ciò che noi abbiamo fatto. È il nostro lavoro, questo è importante. Più il lavoro che fa lui, cioè quello di arretrare per adattarsi a noi. Ecco, se noi combiniamo queste due cose ce la facciamo. Ma basta che una delle due non va in porto e noi siamo buggerati perché ricominciamo da capo. Ecco, non dobbiamo ricominciare da capo. Sta venendo il sole, il caldo, vogliamo andare tutti al mare, eccetera, e cerchiamo di essere bravi. Non facciamo un'altra volta queste aggregazioni che ancora non sono adatte. Ecco, facciamo lavorare il virus e lui se ne va per conto suo e lavora per conto suo. Noi lavoriamo per conto nostro. In questo modo la vinceremo noi, ma solo così dobbiamo dare un aiuto al virus a non farci più male. Professore, mi aiuta e ci spiega, quando noi leggiamo il virus sta mutando, quando parliamo di mutazione di virus ci viene un po' di preoccupazione, d'altra parte è fisiologico, i virus sono tutti trasformisti? Sì, assolutamente sì, si devono trasformare, altrimenti non scappano, non fuggono dal nostro sistema immunitario che invece li vuole prendere e annullare in qualche modo. Quindi loro lo fanno proprio per mestiere, fanno questo. Loro per mestiere ci infettano, mutano e tendono a parassitarci, fanno queste tre cose. Lui sta facendo esattamente questo, ma non dobbiamo preoccuparci, lo fa il virus dell'influenza, lo fa non so, il virus dell'herpes. Lo fanno tutti, è normale, è un loro modus vivendi, ecco, però poi no, quando il nostro sistema immunitario li scopre e diventa più forte di loro, loro si attenuano e o vanno via e non li vediamo più, oppure convivono con noi senza darci troppa preoccupazione. Professor Cicozzi, ma sembra che nel nostro paese il virus abbia avuto due facce, una più aggressiva e letale, l'altra meno, e questo naturalmente si evidenzia dai dati che sono diversi da regione a regione. Tutto questo però ha una spiegazione che il suo gruppo di ricerca ha ben dimostrato. Sì, questo diciamo che dipende, allora noi abbiamo avuto due eventi epidemici in realtà, due ingressi epidemici importanti in Italia. Uno, tra l'altro, a distanza temporale di almeno 2 o 3 settimane l'uno dall'altro. Uno è un evento epidemico dove il virus ci è arrivato direttamente dalla Cina passando per una parte dell'Europa e diciamo più o meno ha interessato il centro-sud Italia. L'altro è che ha provocato uno tsunami incredibile, che tutti noi ne siamo a conoscenza e che sappiamo, è quello che viene dalla Germania e che ha interessato maggiormente il nord dell'Italia, quindi tutta la parte della Lombardia, del Veneto, del Piemonte e la parte diciamo più a nord dell'Emilia Romagna. Ecco, diciamo che non è tanto l'aggressività in sé quanto la sua grande contagiosità, e lì ha trovato dove espandersi in maniera in misura maggiore rispetto magari al centro-sud, dove si è andato ad espandere in misura minore. Teniamo conto pure che per il centro-sud ci fu un campanello d'allarme il 31 gennaio di questa coppia di cinesi che andò allo Spallanzani una volta che si sentì in male, esattamente, e potrebbe anche lì essere stato un buon campanello d'allarme per il centro-sud che lì ha fatto diciamo un po' spaventare, allarmare le persone, tanto è che tutte le persone che poi dal nord, una volta esploso il caso di Codogno, scendevano giù nel sud per rientrare a casa, venivano subito messe in quarantena e loro stessi facevano la quarantena fiduciaria e la facevano bene, perché con quello diciamo che non ci sono stati grandi focolai epidemici nel centro. Potrebbe essere stato questo. Professore, a proposito di ricerca, io so che lei sta lavorando a un nuovo progetto di ricerca su virus e genoma. Non si ferma mai, insomma, professore, d'altronde la ricerca non si ferma. Non è che ci può dare qualche anticipazione, così noi lo sappiamo un po' prima? Ma certo, che ci piace. Ma allora, questa è un'idea carina che ci è venuta un po' di tempo fa. Noi abbiamo anche una nostra genetista che fa proprio genetica umana, e abbiamo la sorella Gurieri, abbiamo anche il Marcello D'Amelio che ci fa tutta la parte diciamo di validazione sperimentale sull'animale e sulle cellule, quello che mancava, come abbiamo detto prima, alle nostre ipotesi di mutazione del virus. E questo è un progetto interessante perché non vogliamo più studiare il virus solamente dal punto di vista del virus, ma la domanda che ci siamo fatti, che ci chiedevamo, era: ma perché uomini e donne si infettano in maniera diversa? Perché ci sono delle etnie che si infettano di più e altre che si infettano di meno? Cioè, c'è una differenza recettività da parte dell'uomo, del sistema immunitario, per esempio, dell'uomo, della genetica dell'uomo per alcuni geni, che possono rendere più o meno recettivi la persona. Ecco, da questa domanda abbiamo detto: beh, allora non studiamo più soltanto il virus dal suo punto di vista, dal suo genoma, ma studiamo anche quelli che sono i geni della parte umana per vedere se c'è una qualche correlazione. E da questa idea abbiamo sviluppato questo progetto, di cui stiamo facendo ciò che si dice in gergo economico il fundraising, cioè stiamo cercando fondi, perché questa è la ricerca, purtroppo. Non è che siamo molto fortunati, non abbiamo tanti soldi da poter spendere per la ricerca. Questa è una grossa pecca che purtroppo abbiamo e ci portiamo avanti da secoli, ma dobbiamo procurarceli. Ecco, noi stiamo addirittura facendo questo fundraising, questa ricerca di fondi per chi ci vuole aiutare in questo, è ben accetto. Come si fa? Basta venire sul... Veniamo sul vostro sito? Sì, sul sito del Campus Biomedico c'è proprio una sezione a parte che può far vedere alle persone quello che noi abbiamo intenzione di fare e diciamo poi può o meno aiutarci con dei soldi che ha voglia di darci per la ricerca. Io l'unica cosa che dico è ricordiamoci che tra la SARS del 2002 e questa SARS dopo 18-19 anni di mezzo c'è sempre la scienza e la ricerca che ci ha aiutato. Professore, grazie, buon lavoro, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto, buona ricerca, è giusto sostenere la ricerca, facciamolo tutti. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Il nostro appuntamento del mattino con Mike Maric, medico, ex campione mondiale di apnea, scrittore e divulgatore. Ciao Mike. Nico, ciao, buongiorno e buona mattina a tutti. Grazie Mike, noi abbiamo bisogno di te, tu che sei lo scienziato del respiro, spiegaci come dobbiamo respirare per evitare quel senso di fastidio che avvertiamo quando indossiamo la mascherina. Ci sono persone proprio che lamentano una specie di fame d'aria. Immagino che sia una questione d'abitudine, perché medici, tu sei medico, gli infermieri indossano mascherine per ore e ore. Ma Mike, dacci una mano, dacci un respiro. Ve lo do più che volentieri, respiro. Prima di tutto suggerendo di indossare la mascherina, che è nata non per sostenere la mandibola o per proteggere la fronte, ma per, scusami la battuta, ma per appunto impedire una trasmissione dell'aerosol e delle microparticelle. Allora, prima di tutto, chi non è un esercente, una professione sanitaria, è normale che abbia un certo, non dico disagio, non si è abituato, e quindi è, come tutte le cose, una questione di adattamento. Al di sotto della mascherina, che deve coprire naso e bocca, se noi imparassimo a gestire il nostro respiro cadenziandolo in un certo modo, sicuramente avremo determinati vantaggi. Qual è questo modo? Ma guarda Nico, quello che ti suggerisco è quello, prima di tutto, di respirare solo con il naso, perché così limitiamo anche la fuoriuscita di aria, perché se sbuffiamo dalla bocca è normale che abbiamo magari un certo disagio, perché respiriamo troppa aria chiusa nella mascherina. Certo. Cominciamo a respirare con il naso, primo punto. Secondo punto, cerchiamo di rallentare anche un attimino la fase di espirazione, cioè di allungare la fase di S, perché così controlliamo i flussi aerei con una certa logica. Ti dirò di più, può sembrare fastidioso avere una mascherina, in realtà tende ad acquietarci. Una delle linee guida per chi ha attacchi di panico è quella di respirare un minuto attraverso un sacchetto di cartone, perché respirare CO2 per un minuto, la nostra CO2 ci acquieta, allenta le tensioni muscolari e anche i disagi emotivi. Quindi non prendiamo la mascherina come qualcosa di negativo, ma anzi impariamo a respirare attraverso la mascherina, perché è un ottimo vademecum per gestire anche l'ansia. Ti sono grata Mike, perché tu ci hai aiutato con questo messaggio a vedere, no, la situazione con un altro paio di occhiali, e quindi a vedere il bicchiere mezzo pieno. Dal limite è una risorsa. Grazie. Esatto. A proposito di gratitudine, io vi ricordo che stiamo ancora aspettando, ne sono arrivati tantissime, le vostre storie, i vostri messaggi, le vostre istantanee sulla gratitudine. Di che cosa siete grati? A voi, alle persone che vi stanno accanto, scrivetecelo, raccoglieremo tutti i vostri contributi, li stiamo consegnando ad Andrea Vitali, che dai vostri racconti traerà spunti per altre storie di gratitudine, perché la gratitudine, da gratitudine nasce gratitudine. Aspetto anche la tua, Mike, una storia di gratitudine di Mike Maric. Con vi piacere. Abbraccio. Vi ringrazio, Peter Bescapè in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi do appuntamento oggi, come sempre, a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata!